English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Dopo la scorsa puntata che abbiamo dedicato al cinema con una splendida attrice con un fantastico accento che era la nostra straordinaria Kate Winslet, questa volta cambiamo mondo e cambiamo accento. Insomma, è un po' una sfida perché purtroppo l'inglese lo dobbiamo usare sempre parlando con persone di ogni nazionalità, è una lingua universale, quindi ci tocca ascoltarlo in tantissimi accenti differenti. Immagino coloro i quali lavorano magari in aziende e quindi hanno a che fare con clienti di tante nazionalità. Io non sono abituatissima all'accento tedesco, credo che Giulia per ascendenze germaniche lo sia di più, credo che tu abbia più abitudine non solo con la lingua tedesca ma anche con l'accento tedesco. Questo è l'accento di Bärbel Neubauer, che è una videoartista molto famosa anche se di nicchia. Lei fa questi video straordinari e io vi consiglio di cercarli su YouTube. Sono dei video assolutamente astratti, pieni di forme colorate, sono forme geometriche che si rincorrono, cambiano colore a ritmo di musica. È una cosa molto difficile da spiegare, lei stessa lo dice. Ha esposto una sua videopera qui proprio nella sede del Sole 24 Ore nei giorni di arte accessibile, questa bellissima fiera che ogni anno che viene ospitata qui nella sede del Sole 24 Ore. Noi l'abbiamo intervistata ed è proprio difficile spiegare l'arte di Bärbel Neubauer. It's indeed not so easy to explain because it speaks with images mainly, but well, it's some kind of metamorphosis of colors and forms together with music and in dialogue with music. And it's mainly abstract, but one can imagine from his or her fantasy if something figurative appears or not, like if you look at a wall and you can imagine a figure even if it's not there, so that kind of abstract changings will take place in the film. Most of the films are based on fractal systems that are very complicated, but they should be just a pleasure. So the complicated thing is not the main thing, this is just my work. In base a un sondaggio interno, il nostro Roberto Scaltritti dice che è comprensibile anche in questo, con questo accento tedesco. Tra l'altro lei è di origine austriaca, ma insomma la lingua è quella e si sente molto. Sì, direi che avrete notato che le uniche parole con cui non ha alcuna difficoltà sono quelle che iniziano per l'H, perché ovviamente da tedesca è abituata ad aspirare, quindi his, her lo dice molto bene. Per il resto ha qualche difficoltà. Io dico sempre che a volte sia i francesi che i tedeschi quando parlano inglese sembra che parli francese o tedesco. E diceva Marta delle mie ascendenze germaniche, mia mamma che è tedesca ha perso praticamente l'accento tedesco quando parla italiano, se parla inglese viene fuori. Beh, straordinario, questo è veramente singolare. La signora Neubauer cerca di spiegare cos'è la sua arte, per questo vi consigliavo di andare anche a vedere qualche video in rete, perché non è facile. No, lei dice che insomma la sua arte it's not easy to explain, o sì, appunto si premunisce con questa premessa, e poi dice because it speaks with images mainly, quindi parla con le immagini. E quello che comunque la sua idea che c'è prima e di cui si è servita, diciamo, per arrivare a darci quest'idea, si è servita di queste immagini, è quella di some kind of metamorphosis, come dice lei qui, la parola naturalmente ha anche una origine latina, quindi ma devo dire, comunque lei parla un bel inglese, ve ne sarete accorti, cioè un inglese molto corretto, con questo accento che si sente particolarmente quando deve pronunciare il TH o le parole che iniziano con la W, perché allora work diventa work. C'è una cosa che mi piace molto di quello che dice. Io ho sempre un po' paura di parlare con questi artisti che maneggiano forme astratte in ogni campo dell'arte, perché tu hai sempre paura di non aver capito quello che loro vogliono dire. E lei invece in maniera molto serena dice no, ma in realtà non è che io voglio mostrarti qualcosa, sei libero con la tua fantasia di vedere quello che vuoi. Quello che dicevamo appunto, his or her fantasy. È bello che può darsi che l'artista astratto abbia una sua idea, però sta a noi vedere if something figurative appears or not. È un po' come un gioco quando guardiamo le forme dell'acqua, le forme delle nuvole, a qualcuno ricordano qualcosa, a qualcuno no. Questi suoi films comunque sono based on the fractal system, che sono sicuramente i frattali, sono una delle cose più affascinanti che esista dal punto di vista chimico-fisico, ma anche delle immagini che solo di recente, grazie alla tecnologia, si è poi riusciti ad usare, e quindi gli artisti se ne sono appropriati. Lei ci ricorda che guardare un'arte, un'installazione di videoarte, should be just a pleasure, dovrebbe comunque essere soltanto un piacere. Perché la parte complicata, the complicated thing, is not the main thing, this is just my work. Cioè della parte complicata mi occupo io. E infatti parlavamo di frattali, qualcosa di davvero affascinante ma davvero complicato. Quindi io le ho chiesto se lei si occupa di questi calcoli matematici, geometrici, che stanno alla base di questo sistema molto complesso, e lei ha una visione un po' particolare. Actually, I work with it intuitively because it's too complicated to keep it in one's brain. So I work with doing it. So my experience tells me how it will function. I don't plan it in a way that I think in the beginning, okay, I want to do this. Of course, I do want to do this. But actually, I develop it by doing it. And I know what it will do from my experience. And I can include those coincidences that fractal systems include. Risposta da artista e non da scienziata. Sì, dice, è chiaro che appunto i frattali, abbiamo detto, sono un'idea sviluppata nella chimica, nella fisica, nella biologia. E quindi lei dice, ammette, it's too complicated to keep it in one's brain. È troppo complicato tenere tutte queste formule matematiche, fisiche, chimiche, biologiche che ci sono dietro nel mio cervello o nel cervello di una persona in generale, in one's brain, quindi nel cervello di qualcuno, diremmo in italiano. E quindi I work with doing it. Quindi lei evidentemente ha degli amici che lavorano con i frattali, che le hanno messo a disposizione questi filmati, e poi lei semplicemente li ha fatti suoi e se ne è appropriata in un modo intuitivo, intuitively, cioè working with it, senza cercare di capirli nel senso stretto tecnico del termine. Il segreto di tutto è my experience, cioè lei continua a lavorare su questa cosa, ormai ne ha una certa esperienza. Sì, dice, non è che inizio dicendo voglio fare questo, poi si corregge e dice of course I do want to do it, cioè è chiaro che io come videoartista voglio fare qualcosa con i frattali, però per loro natura non posso plan, I don't plan it in a way, non cerco di pianificarlo in un certo modo, I develop it by doing it, mentre lo faccio viene fuori, e quindi c'è questa grande componente di incertezza, però guidata, noi dobbiamo fidarci che comunque dietro ci sia l'intuizione, la visione più che altro della videoartista. Io avevo una curiosità che le ho chiesto perché mi sono chiesta se lei ha intenzione di lavorare o ha già lavorato con il 3D. I also love any medium, so, and any technique, so it depends on how it's used. My intention was to go beyond the straight borders and lines, so, and that's also included in the coincidences of the fractal work, to make soft shades and shapes and irregular shapes so that it's close to natural functions. But it's also a style to use it in another way. It can be exciting in any way. Molto possibilista. È una cosa, una strada che le piacerebbe tentare, dopo tutto è affascinata da qualsiasi sbocco possibile della sua arte. Sì, credo che un artista oggi effettivamente se non ha pregiudizi, appunto, o se non crede di sminuirsi usando la tecnologia anziché qualcosa di meno astratto o meno appunto tecnico, ha tutti questi medium a disposizione, tutte queste techniques, e lei dice it depends on how it's used, quindi I love them all, e quello che le interessa però è andare, e qui ho notato una piccola cosa che ci fa capire che sì, sa bene l'inglese, ma l'inglese non è la sua lingua madre, a parte l'accento naturalmente, perché lei dice go beyond the straight borders and lines, invece in inglese si dovrebbe dire go beyond straight borders and lines. Sapete, parliamo sempre di queste piccolissime differenze che però ci fanno capire se uno veramente maneggia la lingua oppure semplicemente si sa far capire molto bene, perché quel the diventa determinativo mentre non ci vuole qui, perché lei dice in generale, il concetto è chiarissimo, a lei interessa in generale andare oltre, to go beyond i confini troppo chiari, straight, dritti, e le linee troppo chiare. per invece ottenere delle shades e shapes, che sono due sostantivi che suonano quasi uguali ma significano cose un po' diverse. Sì, e qui è bello perché sembra quasi appunto che abbia trovato un modo anche poetico, quasi in realtà fosse l'inglese fosse la sua prima lingua. È molto bella questa frase, quindi I use them to make soft shades and shapes. Shade sono le ombre, le ombreggiature, shade naturalmente è la ombra, quindi possiamo anche dire i toni, e i shapes sono le forme. Quindi è chiaro che quello che le interessa, prima ce l'ha detto, le interessa la metamorphosis, e ovviamente perché una metamorphosis sia credibile deve passare lentamente tra toni diversi e forme diverse per passare poi in realtà magari da qualcosa che dall'inizio alla fine poi è completamente diverso. E poi l'entusiasmo dell'artista, it can be exciting in any way. Exciting lo troviamo sempre, abbiamo così, lo scopriamo che lo usano anche gli artisti e non solo i cantanti o gli attori o insomma i personaggi più pop. Sì, e può essere davvero su qualsiasi cosa, no? Exciting, un new movie, o I'm so excited about meeting you, o sono così eccitato dall'idea di vederti, ma nel senso mi muove a entusiasmo questa idea, ecco, più che eccitato in un senso più fisico. E salutiamo la nostra Bärbel Neubauer con questo nome che è un po' uno scioglilingua. Andate a cercare i suoi video perché ci sono veramente delle cose molto belle da vedere. Certo, insomma, vederle via internet non è come assistere a un'installazione vera e propria, però l'importante è cominciare a conoscerla. La salutiamo perché è finito qui il tempo del nostro English 24 di questa settimana. Ringrazio Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.